La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, questa è la nostra mezz'ora di cinema qui su Radio 24, come ogni sabato, per raccontarvi tutto il cinema che c'è, a partire da quello sul grande schermo, ovviamente, qualcuno direbbe l'unico cinema che c'è. E allora, è una settimana molto ricca, con 8 o 9 nuove uscite, c'è qualcosa che esce un po' a macchia di leopardo, e con un bel manipolo di film che potremmo consigliarvi. Vogliamo partire subito allora, perché avremo anche ospiti in questa puntata, i tempi sono sempre molto stretti. Partiamo con Locke, Ivan Locke, che è il protagonista, nonché il titolo anche, del film di Steven Knight con Tom Hardy, grandissimo protagonista, direi unico protagonista, perché gli altri protagonisti sono tutti telefonici. È un film che ha una genesi, se vogliamo, quasi folle, cioè quella di ricordare, raccontare in tempo reale un viaggio dalla periferia inglese a Londra, dove sta per succedere quello che sarebbe di solito nominato un lieto evento, cioè la nascita di un bambino, ma in questo caso l'evento, per quanto lieto in sé, porta molte conseguenze nel suo protagonista, questo Ivan Locke, capocantiere, che racconta durante questo viaggio e cerca di organizzare da remoto, da uomo che vorrebbe sempre avere il controllo di tutto, cerca di organizzare la più grande colata di cemento che avverrà l'indomani mattina, ma avverrà senza la sua presenza. Insomma, tutto in una notte per giocarsi la vita, il lavoro e forse anche riscoprire se stessi. Fai un solo piccolo errore ed ecco che tutto il mondo ti crolla addosso. Tesoro. Ho bisogno che tu tenga duro per me. Che succede? Ci penserò io. Rimetterò tutto a posto. Allora, questo è un estratto dal trailer. Un film che combina diversi aspetti interessanti. Un'idea francamente abbastanza geniale, anche se non è la prima volta che un film si svolge in un'unica unità di luogo. Ma questa volta l'unica unità di luogo è la macchina di Ivan Locke, l'auto, ripresa da tre inquadrature diverse e ogni tanto da qualche esterno di questa lunga autostrada che, come cantava Dario Baldambembo, ti trascina via. E poi le telefonate, tutte le interazioni che sono praticamente continue negli 85 minuti serratissimi del film, arrivano dal telefono in macchina, arrivano dai dialoghi con la moglie, alla quale raccontare che questo figlio, insomma, non è proprio benvenuto, arrivano dal collaboratore del cantiere per cercare di spiegargli come fare la mattina dopo senza di lui a gestire decine e decine di camion di calcestruzzo che arriveranno in questa enorme costruzione, eccetera, eccetera. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Boris, un saluto, parliamo di questo Ivan Locke, film passato a Venezia, fuori concorso, qualcuno si lamentò all'epoca perché, visto anche il tenore del concorso, forse una cosa così innovativa poteva starci anche dentro, ma soprattutto un film che riesce a tenere una tensione assolutamente serrata, pur partendo da quello che potrebbe sembrare quasi anticinema, cioè l'unità di luogo e l'unità quasi di inquadratura. Lamentare giustificatissima è quella per il concorso, perché Locke è uno dei film che a Venezia hanno colpito di più, questo Steven Knight che ha scritto per Fritz e Cronenberg, quindi non per chiunque ma per gente che, insomma, quando prende in mano la macchina da presa pretende una scrittura solidissima. Questa è una lezione di scrittura per il cinema, ma è anche cinema vero. Knight lo deve al fatto che mette su una storia tanto semplice quanto serrata, che riesce a tenere questi 90 minuti con l'unità di tempo e con l'unità di spazio, ma anche con un attore che è costretto senza mezzi termini ad essere costantemente in campo, costantemente coinvolto. E devo dire che Tom Hardy, che eravamo abituati a vedere con delle maschere, che gli mettesse Windy Refno, gli mettesse chiunque altro, qui invece si concede una sobrietà di linguaggio corporeo straordinaria, ha solo la sua voce, ha solo il suo viso, non c'è una smorfia in più, non c'è un urlo in più, c'è solo la sua capacità di recitare, finalmente un uomo medio che però si trova, che noi scopriamo esattamente nel momento eccezionale della sua vita, nel momento che può cambiare la sua vita, in quella notte che è fondamentale per la sua vita e che viene totalmente stravolta, e che lui deve vivere insieme a noi in quei minuti. A mio parere Knight fa un film assolutamente perfetto, quadrato, al 100% sempre presente a se stesso e ci offre una delle cose migliori della stagione. E allora, questo è Locke, sicuramente il film della settimana, quello che ci sentiamo di consigliare, per, appunto anche perché spariglia molti di quelli che sono i codici canonici del cinema mainstream. Partiamo allora con la prima traccia del nostro gioco, come sempre due clip, due frammenti di un film da indovinare e oggi insomma si gioca con il culto, diciamo così, sentiamo. L'installazione della 99esima è terminata, l'ultima la installeremo a 0 gradi di longitudine galattica e a 0 gradi di latitudine galattica sul nostro luogo natio. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci la vostra risposta al nostro indirizzo di posta elettronica, la rosa purpurea, @radio24.it. Inserite come sempre anche il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui vi faremo sentire un altro frammento fra poco. Sto progettando di attraversare a piedi il deserto australiano, da Alice Springs all'Oceano Indiano, una distanza di più di 3.000 chilometri. Quando mi chiedono perché lo faccio, di solito rispondo, perché no? E allora, questo è un po' il C'era una volta, se vogliamo, l'incipit di Trex, il secondo film di cui vogliamo parlarvi questa settimana. Nel 1977, il National Geographic, in una delle sue splendide uscite, aveva una copertina con una donna bionda, con un cammello che teneva per una briglia un po' improvvisata. Ebbene, quella donna era Robin Davidson, che a 25 anni quell'anno mise in atto un progetto folle, quello di attraversare a piedi il deserto centrale australiano, superando Ayers Rock e andando verso il mare, da sola, solo con la compagnia di un manipolo, 3 o 4 cammelli, compreso il cammello cucciolo, diciamo, che si portava dietro, e un cane. Quella copertina, come in un tableau vivant, diventa viva, diventa vera nel film Trex, anche questo passato al Festival di Venezia, un film diretto da John Curran. La protagonista, la Robin Davidson del cinema, tra l'altro straordinariamente somigliante a quella vera, è Mia Wasikowska, la ricorderete in Alice del Paese delle Meraviglie, ed è un film d'avventura come quelli che si facevano una volta, l'avventura di una donna, di una persona, l'avventura umana al cospetto della grandezza della natura. Ma è pieno di storie interessanti questo film, Boris, non trovi? Sono assolutamente d'accordissimo. Altro film che è stato portato da Venezia, e questo va riconosciuto, John Curran riesce a fare quello che forse Sean Penn non era stato capace di fare al maschile del tutto con Into the Wild. Prende una giovane donna, tra l'altro un'attrice che normalmente non ci aveva stupito più di tanto con il suo talento, né con Gus Van Sant né poi in Alice nel Paese delle Meraviglie, forse perché è troppo inespressiva, forse perché è troppo diafana, invece le dà una personalità, le dà un carisma, le dà una bella storia, una storia che per molti versi, volendo giocare con la trama, cammina da sola, perché inevitabilmente questa scoperta dell'ignoto, questa donna giovane, così coraggiosa, anche scontrosa, vita facile in un film del genere. Detto questo, di sicuro l'affrontare un deserto come quello, l'affrontare una storia anche ostica come quella di un carattere che vuole vincere su tutto e su tutti, vuole mettersi alla prova e nel frattempo però rifiuta tutto quello di cui si ciba il cinema, cioè il pubblico, la voglia di mostrarsi, di sicuro è una grande sfida. Secondo me Curran la vince alla grande, la vince anche Mia Wasikowska, che secondo me finalmente si dimostra una grande attrice. Qui la scrittura è estremamente esile, si fa trasportare proprio da un cammello, ma era quello che ci voleva, quindi secondo me promosso anche questo film pieno i voti. La rosa purpurea. Eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea. Parliamo di cinema italiano, come abbiamo detto. Fra poco Claudio Santamaria con noi per raccontarci Il venditore di medicine. Prima però un'altra uscita sicuramente di clima e di tenore più leggero, più brillante. Una commedia che si intitola Un fidanzato per mia moglie. Mette insieme un cast con Geppi Cucciari, Paolo e Luca, Dino a Brescia, Ale Franz, eccetera, eccetera. E è diretto da Davide Marengo. Sentiamo la clip. Ciao. Allora, amici di Radio Mente Libera, buongiorno e benvenuti in ascolto. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, Cose che non sopporto della vita, con Camilla Ledda. Buongiorno Camilla e benvenuta, come stai oggi? Male. Male? E come mai? Cos'è successo? Perché tu vedi tanti motivi per star bene. No, non saprei, dici tu. Ma io vedo solo gente falsamente ottimista. Io detesto l'ottimismo, i sorrisi di circostanza, la gentilezza forzata. Hai presente? Ho presente, però è vero anche che a volte l'ottimismo serve per superare alcuni momenti difficili della vita, no? No, è un modo per negare l'evidenza. L'ottimismo inganna la vita, eppure te. Allora Boris, un fidanzato per mia moglie è una stagione ricchissima di commedie italiane, purtroppo a volte poche si staccano un po' dalla media, fatemi dire a volte anche dalla mediocrità, però questo è uno di quei casi. È assolutamente uno di quei casi. Davide Marengo è uno di quei pochissimi registi, me ne viene in mente un altro, Lucio Pellegrini, che sa cercare una terza via tra la commedia sguaiata, un po' rozza, e quella magari d'autore troppo sofisticata. Questa sa essere una commedia commerciale, lo si vede dal cast: Geppi Cucciari, Paolo Cessisoglu e Luca Bizzarri, e allo stesso tempo però sa essere molto delicata nella scrittura, nel divertimento. Ecco, pur guardando il cast non ci si aspetti di ridere a crepapelle. Questa è veramente una commedia sentimentale, se vogliamo molto europea. La dimostrazione è che Davide Marengo non è la prima volta che ne fa di questo tipo. Si pensa a Notturno Bus, si pensi purtroppo allo sfortunatissimo thriller Lithium Conspiracy, che ancora non è uscito nelle sale. E qui succede la stessa cosa, talmente europea da essere infatti un remake di un film latinoamericano, film molto interessante. Le cose più interessanti sono che Cessisoglu, che si conferma un attore non solo comico, qui interpreta un uomo senza qualità, molto interessante, molto divertente, anche difficile. Luca Bizzarri, che fa il falco, un playboy che ha lasciato sull'altare la figlia di Pelé, ed è famoso per questo, ed è, come dire, la fotografia del pappagallo italiano ormai invecchiato. E Geppi Cucciari, che è una DJ radiofonica, e questo ci interessa, che fa uno spazio in una radio molto divertente, dove dice sempre e solo tutto ciò che non sopporta della vita. Tante piccole idee che si costruiscono una sull'altra per fare un film che non sarà un capolavoro comico, non sarà un capolavoro della commedia sentimentale, ma che porta a casa il suo con grazia, con divertimento, con intelligenza. E non è poco. Di film di Davide Marengo francamente forse ne vorremmo vedere di più, perché ha questa capacità davvero di piacere sia al pubblico sia chi il cinema lo ama oltre il suo valore commerciale. Quindi insomma un film che sicuramente vale. E allora, Un fidanzato per mia moglie, promosso anche questa commedia italiana. Ciao Boris, a risentirci la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Seconda traccia del nostro game di oggi. Te ne eri accorto? Appartengo alla Gaia Fleet. Finché sei a bordo dell'Arcadia, tu sei un mio sottoposto. Io ho una missione. Devo recuperare le bombe rimaste. E poi ti devo eliminare. Beh, qui abbiamo fatto nomi e cognomi, ragazzi. Quindi, mi raccomando, dateci dentro il culto di una generazione arrivato al cinema nella scorsa stagione. La Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci di che film si tratta. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. E allora siamo a questo punto a un'altra proposta italiana, ve l'abbiamo annunciata sin dall'inizio. Parliamo di Il venditore di medicine, un film che una volta si sarebbe definito di impegno civile, cioè quei film del cinema italiano che hanno il coraggio di andare dentro le cose, lo fanno anche con grande profondità nello svelare il meccanismo di qualcosa che di solito noi mortali magari intuiamo, ma insomma sta un po' dietro le quinte. La storia di un informatore medico, Bruno, in un'azienda che vive un momento difficile, disposto a tutto pur di far sì che i medici e i farmacisti propongano il proprio farmaco anziché quello della concorrenza, ma che si trova a un certo punto a fare i conti con se stesso, dilaniato da dentro e con quello che gli sta succedendo intorno. Sentiamo questa clip. L'ho detto ai miei capi che le cose stanno migliorando, ma a me non danno più fiducia. Perché non vai a dirglielo tu? Vai a dirglielo tu! Questo, se vuoi che parta di penna, devi andare tu pesante. Cioè, che intendi con pesante? Cash. Pardo vuole DVD porno. Che faccio, i quarti studio? Certo. Era il sesto appuntamento, sto andando al settimo. Sa che non potrei farlo, vero? Lo chiedo al suo capo, se lo so. Allora Bruno, qual è il farmaco che dobbiamo spingere? Beh, in questo periodo direi l'antibiotico. E allora, diretto da Antonio Morabito, nel cast Isabella Ferrari, Marco Travaglio, un identico Marco Travaglio, e soprattutto direi, visto che il nostro ospite è qui alla Rosa Purpura, Claudio Santamaria, che saluto. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno. Ben ritrovato qui a Radio 24. Mentre vedevo il film, Claudio, mi interrogavo, si fa la classica domanda, dice: come hai preparato il personaggio? E mi ti immaginavo accanto a qualche informatore medico-scientifico andare in giro per farmacie e medici. È andata davvero così? Beh, ho parlato con alcuni informatori e mi hanno spiegato un po' come funziona il meccanismo e come funziona il lavoro, ecco. Quindi mi sono informato da loro, ho preso poi informazioni anche su La casta dei farmaci, che è un libro che parla appunto del mondo della farmaceutica. Mi sembra che il compito sia riuscito piuttosto bene, perché devo dire che c'è una grande, da parte dello spettatore intendo, nel vedere il film, una grande anche ansia crescente che ti viene, no? Di solito c'è una parabola nei film in cui il personaggio a un certo punto del film incontra una sorta di presa di coscienza. Bruno sembra un divorato, lacerato sin dall'inizio. Beh sì, perché comunque tutti questi ragazzi, insomma, le persone che fanno questo mestiere devi essere laureato per fare l'informatore scientifico, e quasi tutti sono, insomma, noi abbiamo immaginato che il personaggio fosse laureato in veterinaria, che avesse fatto il veterinario, quindi voglio dire, vieni da una cosa che nasce da una passione per poi finire a fare un mestiere che magari non ti piace, che è solo legato al profitto, no? In più c'è questa pressione costante dell'azienda, che poi è assurdo, perché le aziende farmaceutiche sono le uniche che non vanno mai in crisi quando c'è la crisi, perché la malattia non va in crisi e quindi i farmaci vanno comprati, ma loro lamentano costantemente crisi come qualsiasi altra azienda, e quindi spesso fanno dei tagli ingiustificati al personale, e quindi quell'ansia è giustificata anche da questo, insomma, dalla continua pressione del capo che ti controlla. Insomma, io questo ho acquisito di informazione, no, dagli informatori con cui ho parlato, che sono sempre sotto pressione, che il capo li chiama costantemente ogni ora per sapere dove sono, cosa fanno, quanto hanno venduto, a fine mese c'è l'ansia di ricevere o meno il premio delle vese, se hai venduto di più o di meno. Insomma, ho sentito delle storie davvero raccapriccianti riguardo a questo, ed è raccapricciante il fatto appunto che ci sia una speculazione così forte sulla salute. Certo, tra l'altro con medici conniventi a dir poco, cioè insomma sì. C'è anche quel côté, cioè non c'è solo l'informatore che preme, ma c'è anche medico e farmacista che purtroppo, pur di andare in Thailandia, ecco, avete in questo senso già avuto dei feedback, ve li aspettate? Perché c'è un j'accuse piuttosto forte anche rispetto a un modus operandi di tutta una categoria, poi non sono ovviamente tutti così, però chiaramente voi inquadrate un modus operandi generalizzato. Beh sì, diciamo che ci sono state, quando è uscito al Festival di Roma abbiamo avuto parecchie critiche, insomma, soprattutto da informatori scientifici, no? Sui siti, su internet abbiamo letto un po' di cose, però basti pensare al fatto che mentre giravamo abbiamo aperto il giornale, c'era la notizia che erano stati arrestati 60 o 70 informatori scientifici, quindi siamo stati subito, cioè voglio dire, se per quanto poi si possano lamentare o indignare gli informatori, insomma il meccanismo funziona più o meno così. Poi, come hai detto tu giustamente, c'è anche la parte sana, voglio dire. Ti faccio una domanda, Claudio, anche di carattere più cinematografico. Sempre guardando il film, mi dicevo che il tuo ruolo 30-40 anni fa sarebbe stato un ruolo perfetto per Gian Maria Volonté. Non so se hai avuto questo tipo di riflessione. Sì, sicuramente sarebbe stato un film a cui avrebbe partecipato volentieri, secondo me. Insomma, era un attore, insomma, politicamente molto impegnato Volonté, quindi e mi spiace che appunto non si faccia più questo genere di film in Italia, perché insomma il cinema di impegno civile è importante tanto quanto una commedia o altro. Perfetto, e allora Claudio, grazie per essere stato con noi, ricordiamo Il venditore di medicine al cinema, e in bocca al lupo per quest'altra avventura. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. E allora è arrivato il momento di dare un'occhiata e dare soprattutto un nome ai vincitori del game della scorsa settimana. Dunque, ci saranno fotografi, interviste. Ogni persona è venuta qui per festeggiare voi, i miei vincitori. Respirate quest'aria, fanciulli. E allora, si trattava di Hunger Games 2, La ragazza di fuoco, il nostro game della scorsa settimana. Le due ascoltatrici che per prime hanno risposto e quindi riceveranno la copia in Blu-ray di questo film sono Margherita Canuti di Caselle Landi, provincia di Lodi, e Simonetta Masiero di Ferrara. Un film molto al femminile, ma del resto la saga di Hunger Games ha un pubblico femminile molto molto ricco. E allora è al telefono con noi Giulio San Giorgio per farci raccontare dalla redazione di Film TV tutte quelle che sono le caratteristiche di questa uscita in Blu-ray. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Hunger Games, La ragazza di fuoco, secondo capitolo della saga tratta dalla trilogia di Susan Collins, è finalmente disponibile in Blu-ray e DVD in un'edizione imperdibile con 2 ore di contenuti speciali, un'edizione in 2 dischi per questo film d'avventura e di fantascienza distopica. I contenuti speciali sono tantissimi, vale la pena menzionare quantomeno il documentario sulla realizzazione, lunghissimo, e la presenza di scene eliminate e il commento audio del regista. E allora, questo per quel che concerne il DVD game della scorsa settimana, Hunger Games 2, La ragazza di fuoco, ma come sempre anche una segnalazione, una chicca dalla programmazione di cinema in televisione della prossima settimana. E domenica 4 maggio su Rai Movie c'è Cabaret, e quando c'è Cabaret si guarda Cabaret, Giulio. Assolutamente sì, sul canale che lo trasmette Rai Movie, siamo a Berlino nel 1931 e tra amori decisamente tormentati e complessi e un senso di morte soffocante con sotto il fondo del nazismo, la storia di Sally Bowles, professione cantante. Bob Fosse, che nel dizionario della storia del cinema si trova sotto la voce grandissimo musical, in un film che fonde i romanzi di Asherwood, una pièce teatrale e il musical più spinto di Broadway. Liza Minnelli è assolutamente immensa. Grazie Giulio, a risentirci la prossima settimana. Ciao, alla prossima. E allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che il tempo di ricordarvi il prossimo appuntamento, sabato prossimo alle 16, come sempre qui su Radio 24, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, state con noi tutta la settimana e noi ci risentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.